Signorina! Don Giovanni! Sei qui, mostro felon, nero d'inganni! Titoli cruscanti! Manco male che lo conosce bene! Via, cara donna Elvira, calmate questa collera! Sentite, lasciatemi parlare! Cosa puoi dire, don Pozion Sinira? In casa mia entri furtivamente! A forza d'arte, di giuramenti e di lusinghe arrivi! A sedurre il cor mio! Mi innamori al crudele! Mi dichiari tua sposa! E poi, mandando della terra e del cielo, salto dritto con enorme delitto! Dopo tre dì da Burgo sta lontani, ma abbandoni e fuggi e lasci in preda il rimorso e dal pianto, per pena forse che t'amai con tanto. Ora un libro stampato, poi in quanto a quello ebbi le mie ragioni, è vero. È vero, e che ragioni forti! E quali sono, se non la tua perfidia o la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle ch'io ti trovasse per fare le sue, le mie vendette. E via, siate più ragionevole, mi pone a cimento costei. E se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo. Salvo il re. Via, dille un poco. E cosa devo dirle? Sì, sì, dille pur tutto. Ebben, fa presto. Madama, veramente, in questo mondo, concio sia cosa quando fosse che, il quadro non è tondo. Sciagurato, così del mio dolor, gioco ti prendi a voi, stelle. L'inico fuggì, misero me, dove, in qual parte? Lasciate che vada, egli non merda che su di lui pensiate. Il scellerato m'ingannò, me tratte. Consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete, nella prima, nell'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno di nomi di sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese, e testimon di sue donne